Noi l'hip hop lo viviamo molto alla giornata, cioè se di sera ci troviamo e abbiamo voglia di andare a ballare la break, andiamo sotto un piazzale del mercato. Quando piove soprattutto, mettiamo due macchine una di fronte all'altra, pompiamo la stessa basella sulle due macchine obbligatoriamente non sincronizzate, perché la nostra break deve andare necessariamente non sincronizzata. Allora, non siamo assolutamente capaci di farlo, però ci proviamo. Io sono il capo della mossa del verme, quando ti butti a terra e cominci a fare il verme. Lui è il Lui nostro Chino, siamo amici della DJ Puzzi, è il nostro capo in quanto fa le giravolte, si arrotola sulla giravolte, sì. Ma testa. soprattutto sto imparando a screcciare le cassette dell'autoradio. È un casino veramente. Ho provato col volante, con la ruota di supporto, però non mi viene. Con l'auto reverso adesso piano piano. Continuiamo a fare un'anticipazione di freestyle. Ci siamo allora.